Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, noi siamo pronti con Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, e Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire il nostro sommario. Quello strano dolore al torace, al fresco ma senza esagerare. Un po' di tempo per sé, per dedicarsi agli altri. Oggi parliamo di un tipo di dolore che per la sua localizzazione genera dubbi, in molti casi allarme. Parliamo del dolore toracico. Può insorgere all'improvviso, in modo violento, o presentarsi in modo più subdolo e sfumato, assumendo caratteristiche tali da farlo descrivere più che come un dolore, come un senso di oppressione, fastidio, una morsa. In ogni caso, cari amici, meglio vederci chiaro e quindi acquisire le informazioni utili e conoscere i dettagli che possono fare la differenza. Allora, iniziamo a localizzarlo. Andiamo alla sede. Il torace è quella zona del corpo delimitata da collo e addome. È formata da un complesso insieme di ossa, articolazioni e muscoli. Al suo interno si trovano il cuore, i polmoni e il primo tratto dell'aorta. Il limite inferiore è dato dal diaframma, un muscolo fondamentale per la respirazione. Sul retro, il torace presenta il tratto toracico della colonna vertebrale, sulla quale si articolano 12 paia di coste, quasi tutte facenti capo allo sterno. Le articolazioni toraciche sono quelle costo-vertebrali esterno-costali. Allora, ora che sappiamo dov'è, come è fatto, cosa serve, siete pronti per partecipare al quiz di oggi legato al consiglio di lettura. La domanda è questa: dietro allo sterno e davanti al cuore si trova una piccola ghiandola. Come si chiama? Mandate la risposta a essere benessere@radio24.it. Il primo ascoltatore che invierà la risposta giusta parteciperà al consiglio di lettura di oggi. Allora, però, adesso è tempo di presentarvi l'ospite che ci aiuterà a raccogliere i dettagli importanti che possono farci comprendere se il dolore che avvertiamo è assolutamente innocuo, al contrario richiede un accertamento, nei casi più seri proprio una corsa all'ospedale. In studio con me abbiamo il professor Piero Montorsi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Prendo fiato per leggere tutta la sua qualifica per intero: direttore della Seconda Unità Operativa Cardiologia Invasiva al Dipartimento di Scienze Cardiovascolari dell'Università presso il Centro Cardiologico Monzino. Perfetto. Promossa. Allora, professore, stiamo parlando di un tipo di dolore che spesso è difficile da descrivere e che sappiamo può avere cause molto diverse. Possiamo elencarle, non so se preferisci, sì, in ordine di gravità o al contrario? In ordine di gravità e anche in ordine in fondo di frequenza. I problemi cardiovascolari sono al primo posto, che sia l'infarto, che sia l'angina, che sia comunque un problema legato al muscolo cardiaco. Seguono i problemi polmonari, soprattutto le pleuriti, le infezioni broncopolmonari, i problemi digestivi. C'è anche l'esofago nel torace, quindi l'ernia iatale con il reflusso dell'esofago può essere un motivo di dolore, e poi una vasta gamma di dolori cosiddetti osteoartromuscolari, dalla semplice artrosi alla fratturina della costa, altre che possono dar fastidio. Allora, adesso andiamo a focalizzare come si manifesta il dolore. Anche queste, noi abbiamo preparato una scheda per farvi raccogliere dei dettagli importanti. Carmelo, andiamo. Il dolore è localizzato o diffuso? In altre parole, sai indicarne in modo preciso il punto di insorgenza? Si manifesta all'improvviso e poi sparisce nel giro di poco tempo, o al contrario è un dolore con cui convivi da tempo? Quando fai un respiro profondo lo senti diminuire o al contrario aumenta in intensità? Si irradia anche ad altre parti del corpo? Insorge di notte o di giorno? A stomaco vuoto o pieno? A riposo o dopo uno sforzo? Professore, quante cose bisogna raccontare di questo dolore? Questo fa parte dell'anamnesi, il clou è tutto lì, chiedere la domanda giusta e farsi dire la cosa giusta, è tutto lì. Vogliamo aggiungere qualcosa a questa batteria di domande? Secondo me è importante chiedere al paziente, può essere una banalità, se è la prima volta che ha avuto questo tipo di dolore, se già lo conosce, perché allora può deporre, vuole una cosa magari più tranquilla, già più conosciuta, che dà meno fastidio. Se è la prima volta bisogna ricominciare, forse bisogna cominciare tutto da capo. 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. È l'ascensore rotto. Ma va? Dove te l'ha accorto? Te lo giuro, è fermo al 15° piano, mi sono fatto... Ma adesso c'è, non lo vedi che sono qua col fiatone, Ma che ne so io, c'è il fiatone quando giri il caffè, tu? Sto caldo. C'è l'aria condizionata rotta. Ecco. Benedetta aria condizionata, che dite? Ma patto che sia usato correttamente, perché se si esagera o se ne trascura la manutenzione può causare problemi di salute, dal semplice raffreddore a bronchite, mal di schiena, torcicollo. Allora, per stare freschi dobbiamo usare il buon senso, questo ogni anno puntuale gli esperti lo ripetono, e seguire alcune semplici avvertenze. Le ripassiamo, le conosciamo, insieme al dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori, accaldati penso. Accaldati, noi devo dire che qua in studio con il professor Montorsi stiamo che è una bellezza, vero prof? Divinamente. Divinamente. Allora, dottore, i vantaggi si sentono ma i rischi si vedono, perché vediamo persone raffreddate oppure bloccate dal torcicollo, insomma c'è chi vuole esagerare e poi la paga. Esattamente, ha detto proprio la cosa giusta, chi vuole esagerare la paga, cioè chi vuol sentire troppo fresco, vuol sentire immediatamente una sensazione di benessere venendo dall'esterno, dal caldo dell'esterno, rischia di pagare questa sensazione, perché se usiamo il condizionatore o il climatizzatore, se usiamo questi sistemi che raffreddano l'ambiente, dobbiamo avere la precauzione di non abbassare troppo la temperatura rispetto all'esterno, perché è lo shock termico, il passaggio dal caldo al freddo, che fa malissimo al nostro organismo. Dottore, lei ha parlato di climatizzatori e condizionatori, io aggiungerei anche le vecchie pale. Secondo lei quale di queste tre soluzioni, anche il ventilatore, aggiungiamo, è più amica del nostro benessere? Diciamo quella che è più nemica del nostro benessere, che secondo me è il condizionatore. Il condizionatore è un oggetto che serve a raffreddare l'aria all'interno di un ambiente chiuso, che può essere una stanza, ma senza tener conto della temperatura che raggiunge. Quindi continua a raffreddare fino ad arrivare a temperature molto basse. Viceversa il climatizzatore, cioè un oggetto che ha un termostato che serve a regolare la temperatura e quindi a spegnerlo quando si raggiunge la temperatura desiderata, è l'oggetto migliore, purché la temperatura venga selezionata, come ho detto, non troppo bassa rispetto all'esterno. Facciamo quanti gradi di differenza devono esserci tra l'interno e l'esterno, il dottore? Il consiglio è di non superare i 4-5 gradi di differenza, anche se apparentemente entrando, poi questo dipende anche molto dalla temperatura esterna, perché se la temperatura è molto alta possiamo abbassare ancora, però il problema è che se noi siamo in un ambiente cominciamo a regolarlo a una temperatura che non sia meno di 4-5 gradi rispetto all'esterno, e poi eventualmente raffreddiamo ancora un po', perché se raffreddiamo subito molto, è quello sbalzo di temperatura, non ci fa bene, sicuramente rischiamo il torcicollo, perché magari il muscolo accaldato, la parte sudata prende immediatamente la botta di freddo e non va bene. Professor Montorsi. Sì, quello che dice il dottor Gargiulo assolutamente è legge, Bibbia. Devo dire che molti pensano al condizionatore uguale appartamento, invece il grosso problema è il condizionatore macchina, dove tutto quello che ha elencato il dottor Gargiulo diventa operativo nel giro di pochissimi secondi, dove uno entra con la macchina al sole magari da mezza giornata, quindi bisogna stare attenti allo shock termico quotidiano d'automobile. La seconda cosa, esiste una funzione ai condizionatori che è quella della deumidificazione. Cioè si toglie l'umido, che è quello che ci fa star male, sì. E non si abbassa terribilmente la temperatura, si vive benissimo. Molti invece vanno subito sul fiocco di neve e via. Esatto, e quindi bisogna utilizzarlo meglio. Martina ci scrive: salutare dormire con l'aria condizionata, sarebbe meglio creare un po' di corrente tra gli ambienti? Dottor Gargiulo. Secondo me l'aria condizionata, usata come va usata, può essere utile anche di notte. Anche lì la temperatura rispetto all'esterno, a questo punto non scendiamo sotto i 3-4 gradi, e poi teniamo a portata di mano il nostro lenzuolo, che in caso di necessità può essere tirato sul corpo e quindi ci aiuta a non sentire freddo. Grazie dottor Gargiulo per essere stato con noi. Buona giornata e stia fresco anche lei. Grazie, speriamo che stiano freschi i nostri ascoltatori. Grazie, buona giornata. Arrivederla professore. Arrivederci. Pronto soccorso. Harry! Richard! Penso nei tuoi pensieri, eh? Stavo giusto pensando a un libro che ho scritto. Sono incasinato. Che è successo? Sto andando dal dottore, sai, ho dei fortissimi dolori al petto. Ah, non è niente. È indigestione o colicisti o ulcera o un po' di... No, ho dei precedenti in famiglia. Mio padre è morto prematuramente di infarto, mia madre di trombosi coronarica e due miei fratelli sono morti a 50 anni di attacco cardiaco. Hai da fare? Stavo andando dalla mia... Detesto andare a farmi visitare da solo. E noi torniamo al tema del giorno, al dolore toracico. Cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni utili per distinguere il dolore innocente da quello più serio. Sicuramente, professore, il sintomo dolore avvertito a livello del torace assume caratteristiche diverse in base alla storia clinica del paziente, no? Assolutamente vero. Quello che ha detto l'intervistato prima sulla familiarità è fondamentale. Mentre il medico guarda il paziente in faccia, gli chiede due tre informazioni sul tipo di dolore, fa altrettante due tre informazioni. Se è un uomo di mezza età, con fattori di rischio, con precedenti, è molto probabile che uno debba cercare di vedere in prima di tutto se è un problema cardiologico. Lei ha citato i fattori di rischio, che sono i classici fattori di rischio: fumo, sedentarietà, alcol, sovrappeso. Sono questi che possono fare la differenza e anche orientare il medico. Assolutamente, aggiungiamo ipertensione, diabete, colesterolo alto. Andrea Giuseppe, che ci chiama dalla provincia di Lucca. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Senta, io volevo sapere una cosa. Siccome ho mia moglie che soffre di questi dolori al petto, più sì. volte l'abbiamo portata al pronto soccorso, dal petto gli passa dietro la schiena come se qualcuno gli infringesse col coltello. Questi sono i dolori che mia moglie spiega, ma più volte l'abbiamo portata al pronto soccorso, li prendono anche mentre dorme. Loro scongiurano che l'infarto non c'è niente, è tutto a posto, il cuore, però non si riesce a venire a capo di quello che può essere. Quindi volevo sapere qualcosa, se da chi mi devo poi rivolgere. Bella domanda, Giuseppe. Professor Montorsi, gli esami la sono ringrazio. Grazie a lei, Giuseppe, esami tutti negativi, ma il problema persiste. Che cosa si fa? Ci si convive? Si sceglie un'altra opzione diagnostica. Se la signora è stata a pronto soccorso, dove le hanno fatto un elettrocardiogramma durante il dolore, gli esami il sangue durante il dolore e non c'è nulla, è verosimile che non abbia un problema coronarico. Le donne sono a meno rischio, se non conosco i fattori di rischio è probabile che ci si indirizzi verso un problema, forse così, da quello che mi dicono, di tipo osteoartromuscolare. Il fatto che sia coltellata sembra più una cosa di tipo dolore intercostale, e quindi è probabile che vado a faccia una visita ortopedica, una lastra del torace, un approfondimento in quel senso. Il dolore, mi scrive un ascoltatore, mi insorge nell'emitorace sinistro, siamo anche tecnici, sotto l'ultima costola, in piedi, di giorno, e provo sollievo con un respiro profondo. Ma attenzione, si irradia anche posteriormente. Mi sembra quasi un quiz, professor Montorsi. Sì, io prima guarderei se il soggetto non è stressato, non ha problemi di contorno piuttosto che organico. Una descrizione così, così precisa a volte non vuol dire che c'è sotto un problema importante. Allora io riprenderei alcuni degli spunti che abbiamo dato nella nostra scheda per dare un po' di informazioni. Ad esempio, se insorge all'improvviso, lei ha detto fate attenzione se è la prima volta che insorge, oppure, perché se è la prima volta dobbiamo prestare particolarmente attenzione. Ma io starei proprio improvvisamente, io sento un male terribile al torace, una fitta. Rischio o non rischio? Beh, per forza il dolore per definizione deve cominciare all'improvviso, quindi poi dopo che sia lieve, in aumento, già forte fin dall'inizio, è comunque una cosa immediata che mette in difficoltà e mette in angoscia il soggetto. Bisogna vedere un pochino com'è la situazione, se tende ad aumentare, se rimane forte, se va e se viene. Quanto tempo si può aspettare in presenza di questo dolore al torace prima di rivolgersi subito andare subito in ospedale? È giusto aspettare e capire come, no, evolve il dolore, o alla prima avvisaglia meglio chiamare e andare? Ma io direi, per essere super generali, se sì. il dolore è importante, il paziente è molto in difficoltà, deve farsi vedere. Sì. Non deve cominciare la solita litania della prima la camomilla, poi pensa che non ha digerito, poi sì. quelle stupidate gli fanno perdere tempo. Noi abbiamo messo se il dolore si allenta facendo un bel respiro, se va via respirando una bella respirazione, è un una buona notizia. È un segno positivo, sicuramente. Abbiamo distinto se il dolore insorge a riposo o a seguito di un movimento. Ci sono tante persone che facendo sport a un certo punto si fermano proprio perché hanno un dolore al torace. Ecco, fa differenza il riposo dal movimento? Assolutamente, ma quello che dice lei è importantissimo. Se il tutto è venuto e insorto dopo uno sforzo fisico, un'attività fisica magari cominciata da poco per riprendere un pochino di forma, è probabile che ci sia una relazione tra le due cose, quindi uno strappo muscolare, un qualche cosa che può essere di tipo squisitamente osteoartromuscolare. A riposo la cosa è un pochino più complessa, perché può essere sia anche un problema cardiaco che un problema di altra natura. Tutto quello che viene a riposo e che è importante ci deve fare un pochino tenere le orecchie diritte. Sì. Andiamo a Bergamo, perché c'è Renato che ci aspetta, 800 24 00 24. Buongiorno Renato. Buongiorno, Premesso che io sono un portatore di 3 stent coronarici. Sì. E diciamo che io quel dolore dell'angina lo conosco abbastanza bene, purtroppo. E ieri ero in montagna a camminare, io sono un camminatore, diciamo, un alpinista di media tacca, e ho avuto questo problema, ma non un dolore lancinante come quello dell'angina. Sì. E all'altezza dello sterno. Non so se può influire, siccome io ho una spalla in disordine e ho fatto delle infiltrazioni recentemente. Potrebbe, lei dice, essere questo. Sono le pastiglie che prendo, che io prendo un bel po' di pastiglie perché è il mio problema. Allora, professor Montorsi, Renato ci racconta una storia che ti dà anche tanti spunti, no? Per parlare di questo, appunto. Lui dice: sono cardiopatico, ho fatto esercizio fisico, quindi ho avvertito questo dolore a livello dello sterno. Che indicazioni possiamo dare, partendo dalla storia di Renato, a livello generale per i nostri ascoltatori? Devo dire che il cardiopatico, purtroppo, anche se sistemato molto bene dai colleghi, ha la fregatura, tra virgolette, che qualsiasi cosa che ricompare sul torace deve fargli pensare a che possa avere una relazione con quello che è successo a livello cardiaco. Per cui poi dipende da come è stato sistemato, se completamente o meno. Per cui la prima cosa è vedere se il disturbo in qualche maniera ricalca cose vecchie, prima dell'intervento degli stent, per esempio. Se assomiglia come qualità e come tipologia, potrebbe essere un nuovo problemino che viene dalle coronarie. Se è una cosa completamente diversa, ci si può anche pensare, si può prendere un pochino più di tempo. A volte il dolore al torace insorge per una fortissima paura, è un sintomo infatti dell'attacco di panico. Ne parliamo oggi con il professor Claudio Mencacci, che è tornato a trovarci, psichiatra, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno professore, bentornato, grazie. Buongiorno a voi. Professore, tra i sintomi che vengono descritti da chi ha avuto un attacco di panico, poi diagnosticato, c'è appunto, viene riferito, un forte dolore al petto e una mancanza di respiro. Ecco, il punto è proprio questo, e tra l'altro questa è la stagione nella quale c'è il maggior numero di attacchi di panico all'estate, che si presenta frequentemente come, da un lato, un senso di soffocamento, una fame d'aria, un senso di costrizione al petto, un aumento dei battiti cardiaci e una sudorazione. Frequentemente la prima occasione le persone sono molto spaventate, pensano di avere un attacco cardiaco, corrono al pronto soccorso, fanno gli accertamenti dovuti, ma una volta fatto gli accertamenti dovuti si può pensare, e anzi si deve pensare, iniziare a curare, che quello è stato un attacco di panico. Professore, ma come mai il panico, no? La paura è qualcosa poi di così, no? Difficile anche da descrivere, insorge all'improvviso e riesce ad avere un cotè così fisico come il dolore al petto, insomma sembra cervello e cuore, no? Perché c'è questa relazione? Beh, una relazione perché cervello, cuore, tutto l'organismo sono strettamente collegati, e quando si ha una quantità d'ansia così alta come nel disturbo panico, è il momento in cui la persona è convinta di morire da un momento all'altro, di impazzire da un momento all'altro, è talmente intensa che tutto l'organismo vive questa percezione di paura e la vive somaticamente, la vive con grandissima intensità, così come d'altra parte in alcune condizioni di depressione il 40% dei sintomi sono sintomi somatici, sono sintomi di dolore più frequente, e anche lì dolore o al petto o alla schiena, e perché in fondo cervello, cuore, dolore viaggiano sempre sulle stesse vie, sono la stessa cosa, siamo noi che le percepiamo diversamente, ma sono la stessa cosa. Professore, lei ha detto molte persone, e lo fanno professor Montorsi credo giustamente, si rivolgono perché sono molto spaventate da questo tipo di dolore, vanno al pronto soccorso, fanno gli esami, tornano a casa, niente da evidenziare. Professor Mencacci, a queste persone noi che cosa dobbiamo dire? Curatevi? Quello che dobbiamo dire è che questo disturbo è assolutamente curabile, e che dopo aver fatto gli accertamenti, quindi è importante escludere altre patologie, di non perdere anni in inutili ricerche, in inutili approfondimenti diagnostici, perché si tratta di un disturbo panico che deve, può, che può e deve essere curato. Le persone allo stato attuale nel nostro paese, prima di avere una diagnosi precisa, ci impiegano oltre 2 anni, e questi 2 anni sono fatti di continui esami e di continui accertamenti, e è tutto tempo perso per una cura che invece può essere efficace. Professor Mencacci, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, a presto. E noi andiamo a Luisa, ci chiama da Bergamo all'824-0024. Luisa, buongiorno. Buongiorno. Intanto volevo chiedere, intanto che c'è anche Luisa, professor Montorsi, è frequente che persone si rechino al pronto soccorso e che poi vengano dimesse con: signora, non c'è nulla di grave, il suo cuore sta benissimo, ma gli viene detto qualche cosa in più? Secondo lei c'è questa sensibilità da parte dei medici del pronto soccorso o non compete a loro? No, li compete sicuramente per quello che loro possono dire con le analisi, con quello che hanno in mano. È un dovrebbe che però purtroppo succede poco, e c'è una laconica definizione: quando uno esce, altre forme di dolore non cardiaco con cui il paziente viene dimesso. E il paziente è contento perché non ha mal di cuore, questa è la cosa importante, ma non ha risolto il problema. Il medico forse ha un po' di fretta, ha un pronto soccorso molto colmo, e lei si finisce, come dice il professor Mencacci, a tirarla in lungo anche per quasi 2 anni. Luisa, veniamo a lei. La mia terzogenita ha 12 anni. In questi ultimi mesi è stata colta spesso da dolori che io ho chiamato dolore intercostale, avendo interiorizzato personalmente solo il dolore intercostale, con la stessa similitudine al dolore che presenta la ragazzina. L'ho dovuta portare un paio di volte dal medico, dalla sua pediatra. Perché è successo una volta durante l'orario scolastico, per cui sono stata chiamata dalla scuola d'urgenza per andare a ritirare questa bambina che piangeva e accusava questo forte dolore intercostale, io l'ho chiamato, che persisteva, la bambina piangeva, fa fatica a respirare quando ha questo dolore, per cui il respiro lungo non fa passare il dolore. Va avanti per una mezz'oretta, tre quarti d'ora, la pediatra mi ha prescritto un elettrocardiogramma che io non ho fatto fare alla bambina, perché non so se è il caso di far fare un elettrocardiogramma, anzi chiedo consiglio. Perché Luisa dice giustamente, è così piccola, insomma l'età in qualche modo ci dice qualche cosa, professore, perché un conto è il dolore toracico che avverte una persona anziana o una ragazzina di 12 anni. Assolutamente, nei bambini così piccoli bisogna pensare a strane cardiopatie congenite che sono per definizione rare, ci possono essere ma sono veramente molto rare, è più facile che sia forse qualcosa di extracardiaco, anzi direi sicuramente di extracardiaco. Luisa, scusi, sì. Il dolore è molto forte, infatti la bambina si spaventa, è successo l'ultima volta 2 settimane fa, la bambina era in montagna, stava sciando. Era in montagna a sciare, alla sera ha avuto questo dolore acuto fortissimo, per cui in situazione di rilassatezza, in situazione piacevole. Luisa, lei mi dice, adesso il professor Mencacci l'abbiamo salutato, ma lei ha aggiunto, ha detto fa fatica anche a respirare. Adesso io non è che voglia sostituirmi a un medico né al professor Mencacci, professor Montorsi mi aiuti, però mi sembra che Luisa descriva una situazione molto simile a quella descritta dal professor Mencacci quando ci ha parlato di attacco di panico, che possono venire anche in età giovanile. Luisa, auguri alla sua bambina. Grazie. Grazie a lei. Giorgio da Padova, buongiorno. Buongiorno dottoressa Carbone, a lei e ai suoi ospiti, grazie per l'opportunità. Una domanda, io ho 47 anni. Sì. Attualmente sono, diciamo, inoccupato. Sì. Da un anno a questa parte. E niente, io sono di costituzione abbastanza robusta, solo che... Morbido, insomma. Bravissima. Niente, ho avuto un infortunio sul lavoro qualche anno fa e ogni tanto ho delle ricadute, e per cui usando del cortisone e via dicendo sono lievitato, come si suol dire, di peso. Sì. Ho superato i 100 kg. Negli ultimi mesi mi sento veramente dei dolori forti alla zona centrale, dallo sterno, e alla zona laterale sinistra. Sì. Verso la zona cuore, per intenderci, che poi si estende verso il braccio sinistro, con dei relativi mal di testa. solo che quei mal di testa non so se dare la colpa, visto che soffro della malattia di Stargardt, che è una sindrome oculare, una patologia retinica. Sì. Ecco, però i dolori centrali alla zona centrale del petto, quelli si fanno sentire ultimamente abbastanza. Ecco, lei ha localizzato il dolore al petto, professor Montorsi, di frequente, e poi Giorgio, e noi lo diciamo anche tra di noi, no? Quando uno ci dice male al petto, ma male anche al braccio, insomma noi colleghiamo questi due dolori, ci facciamo un po' un'autodiagnosi. Ce l'ha in modo frequente, sovrappeso, prende il cortisone, maschio, 47 anni, Ma adesso bisogna vedere cos'è stato l'incidente sul lavoro, se è stata una cosa che ha interessato anche fratture, ossa, articolazioni, quindi che possa risaltare fuori e sollecitare una sintomatologia che comunque salta fuori sulla cassa toracica. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, e questo lo dico un pochino in generale rispondendo all'ascoltatore, dai 40 ai 55 anni, questa età media, uno si faccia uno score di che rischio ha cardiovascolare, quindi poi dopo cerca di capire se il dolore che ha può essere o no cardiaco. www.progettocuore.it è il sito del Ministero della Sanità, dove c'è questo questionario per farsi uno score se uno può è a rischio o no di avere un evento cardiovascolare. E le domande classiche sono, professor Montorsi? Inseriscono se uno è iperteso, se fuma, ci vuole qualche dato di pressione arteriosa, della glicemia e il colesterolo, che uno più o meno ha sempre un prelevo, è sempre disponibile. Si inserisce nel computer, si clicca e viene fuori uno score che ti dice che hai un rischio lieve, intermedio o alto di avere un evento nei 10 anni successivi. Se lei finisce nel gruppo lieve, tranquillo. Gruppo medio o alto, vale la pena di farsi vedere allora dal medico di famiglia prima di tutto, o farsi fare una buona visita e impostare tutto. Eccoci, siamo tornati. Allora, la risposta al quiz di oggi era il timo, e la risposta ce l'ha inviato Paolo da Milano, e quindi a lui riceverà a casa il libro del nostro consiglio di lettura. Grazie alla collaborazione di Internet Book Shop, oggi Paolo riceverà a casa, dato che ha risposto per primo al quiz di oggi, Cuori allo specchio, un libro di Massimo Gramellini, tra l'altro magnifico. In collaborazione con IBS.it. Allora, professore, lei ha detto intorno tra i 40 e i 50 anni valutate un pochino, no? La vostra possibilità, il vostro rischio, quanto è alto, medio, lieve. Le donne devono posticipare questi controlli? Le donne si ammalano sempre almeno 10 d'anni più tardi dell'uomo. E viviamo anche di più. Ecco, quando si ammalano però si ammalano in maniera tosta, per cui la forbice poi si riunisce un pochino man mano che l'età passa. Quindi possiamo dire dopo la menopausa? Dopo la menopausa, esattamente. La menopausa è il punto di riferimento. In cui poi il cuore femminile non ha più le protezioni degli ormoni, giusto? Esatto. Poi ci sono degli esami da fare, perché questo dolore al petto, descriviamolo bene, questo dolore al petto, quello che allarma, e se riusciamo facciamo un distinguo con un dolore al petto che invece non deve, questo non si può fare, ma magari preoccuparci. Dunque, la diagnosi di problema di coronaropatia, cioè coronari che si restringono, che sono quindi la causa del dolore, la si fa nell'80-90% dei casi con l'anamnesi. Il paziente si ascolta bene, pardon, il medico si ascolta bene il paziente, dovrebbe essere già sicuro dopo il colloquio della diagnosi. Allora, di solito il dolore è un dolore che viene in zona retrosternale, quindi dietro lo sterno. Sì. Non è sempre un dolore, come diceva lei, può essere uno schiacciamento, un peso, un senso di stiramento, un senso di qualcuno che si siede, il paziente dice qualcuno che si siede sul mio torace, qualcuno invece ha, per esempio, cose un pochino meno frequenti, è tipo eruttazioni, possono essere dei segni, che viene soprattutto in coincidenza di uno sforzo fisico oppure di un'emozione o di un'arrabbiatura che vale tanto quanto lo sforzo fisico. Questo non viene mai detto abbastanza. Discussione col figlio, il papà che ha 60 anni, finita la discussione, sente montare un disturbo dietro il petto che pian piano aumenta, 10-15 minuti, dovrebbe andarsene per conto suo in 15 minuti al massimo. Dal petto può avere delle radiazioni, le spalle, la gola, la mandibola anche inferiore o proprio in basso verso l'ombelico, la zona dell'epigastrio, facendo confondere per una gastrite, dietro in mezzo alle spalle per esempio, e il tutto comunque in 15 minuti se ne va. e ha questo stretto rapporto con il fattore scatenante. Questa è la chiave della diagnosi. Se in più ci mettiamo che il soggetto è iperteso, fumatore, sovrappeso, è fatta. Questo rende conto del 90% della diagnosi solo con la con una visita, con la chiacchierata. Diciamo. Poi? A questo punto, se il medico è convinto, fa fare qualche test. Il primo test da fare è una prova da sforzo. Se il dolore viene da sforzo, bisogna riprodurlo in laboratorio. Il paziente sulla bicicletta o sul tapirulan, con l'elettrocardiogramma mentre fa l'esercizio, prova a fare uno sforzo finché riesce di media entità e si guarda se, se il dolore viene provocato anche in laboratorio e quando viene il dolore si cambia l'elettrocardiogramma. Se così è, la diagnosi è fatta, a questo punto bisogna passare allo step successivo, che è quello di andare a vedere dove le coronarie sono ammalate e come si possono sistemarle, cioè con la coronarografia. Che è un intervento... È un esame, si dice, invasivo, perché bisogna bucare con un ago l'arteria femorale, sì, e va fatto in ospedale. Io ho già fatto anche quella e quindi sono a posto. Franco da Bologna, buongiorno. Buongiorno, il mio problema è questo, io sono, permetto che sono in... Franca, scusi, ma io ho detto, vabbè, ho letto ma pensavo che fosse Franca, scusi Carmela, Franca, se no... Sì, esatto. Benissimo, sì. Io sono, faccio visite periodiche annuali dal cardiologo, ecco, fino adesso tutto andava abbastanza bene. Perché però, fa visite? Un mese fa circa, sì, ho avuto un attacco di notte, un forte male al petto. E la cosa strana, perché mi era capitato altre volte ma poi veniva superato, era che mi ha fatto molto male alle gengive e alla dentizione, cioè alla parte sopra. Sì. Quindi è chiaro che la dottoressa del medico curante mi ha detto dovesse capitare va direttamente al pronto soccorso, controlliamo, ecco, però volevo sapere che cosa poteva essere questo sintomo. Ecco, io aggiungo a Franca anche un messaggio che ci manda Luisa dicendo: ultimamente ho sentito che le donne non hanno gli stessi sintomi di infarto degli uomini, ma che i medici non lo sanno e sbagliano diagnosi. Quindi da Franca a Luisa apriamo il capitolo femmine. Dunque, l'irradiazione del dolore che racconta l'ascoltatrice è abbastanza suggestiva. Quando si dice che sale dal giugulo fino al collo, alla mandibola, quasi quasi fino alle orecchie, può essere un sintomo di richiamo delle coronarie. Anche se l'esofago qualche volta può metterci uno zampino e dar fastidio, è uno spasmo dell'esofago. Io non so per quale motivo la signora sia seguita dal cardiologo. Perché dice controlli annuali, per questo... Di che cosa? Però se questo... se poi ha fatto dei test come una prova da sforzo, un ecocardiogramma, altre cose che saranno stati fatti sicuramente sono negativi, bisogna allora magari provare a spostarsi dal cuore e vedere se l'esofago può essere interessato, magari uno spasmo esofageo. Agli amici che mi mandano i messaggi chiedendomi parlate anche del reflusso, io rimanderei al nostro archivio. Abbiamo dedicato intere puntate al reflusso gastroesofageo. Oggi vogliamo focalizzarti più sulla salute dell'apparato cardiovascolare e quindi io vi invito ad andare sulla pagina di Essere Benessere, cliccate per tutte le informazioni del reflusso, siamo preparati e pronti a darvi anche quelle. Professore, abbiamo Paolo da Gorizia. Paolo? Eccomi, buongiorno. Eccola, buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Grazie dell'opportunità. Io chiamo da Gorizia, ho 50 anni, da circa due annetti, così soffro di extrasistoli a intervalli irregolari da un mese a due, così, che mi duravano un quarto d'ora, cinque minuti. Ultimamente sono aumentati, ieri vengo dal pronto soccorso, sì, questa notte. Sei passato la notte lì, Paolo? Ho passato la notte lì, sì, adesso sono al lavoro, però voglio dire, ho avuto questo estrasistole con dolore allo sterno, alla bocca dello stomaco, con chiusura, senso di pesantezza, diciamo, dopo cena ieri. Ho mangiato tardi, per cui mi è durato un due ore, sono andato al pronto soccorso, hanno trovato una extrasistole atriale, mi ha dato una pastiglia e circa dopo tre quarti d'ora mi è passato, mi ha fatto l'esame del sangue all'una e alle sette di mattina. E hanno detto... Era tutto a posto. Vada tranquillo. Infatti lei è già lì che lavora. Ma professor Montorsi, Paolo si è passato una nottarella in ospedale, per fortuna niente, bastano infatti gli esami del sangue, in questo caso per verificare se degli enzimi sono mossi. Esattamente. Se questi non si sono muovono... Sono preparata perché io l'ho avuto. Troppo brava, mi rimetto la giacca e vado a casa. Troppo brava. Se gli esami sono negativi, comunque non dovrebbe essere niente di coronarico. L'estrasistolia, come quella che ha l'ascoltatore, può dare questi disturbi, può dare senso di fiato che manca, qualcosa che debba, un colpo al torace, che poi un battito che sale verso il collo e che esce dalle orecchie. Sono un pochino bizzarra la sintomatologia, ma ci può stare. Se è atriale, solitamente un cinquantenne senza fattori di rischio non dovrebbe essere niente di particolare. Allora, quindi chiudiamo con questa rassicurazione. Ringraziamo il professor Montorsi che ci ha accompagnato, no? Perché il dolore al torace fa sempre venire mille dubbi e mille paure, poi alla fine o c'è chi lo trascura o chi lo prende troppo sul serio. Comunque meglio una corsa in più che una corsa in meno. Sicuro. Professor Montorsi, grazie, e io vi saluto con un consiglio tratto dal libro L'arte di imparare ogni cosa di Jon Kabat-Zinn. Ieri abbiamo parlato di consapevolezza, oggi è il consiglio è, soprattutto per noi donne, per dedicarti agli altri, ritagli i tuoi spazi. A domani, un saluto da Nicoletta. Alcuni incontrano una certa resistenza a prendersi tempo solo per se stessi. Alcuni scoprono di avere una vocina interiore che dice loro che questo è egoismo o che non meritano questo tempo e questa attenzione. Spesso riconoscono in essa messaggi ricevuti nell'infanzia. Non essere egoista, pensi solo a te stesso. Se ritieni che aiutare gli altri sia la cosa più importante, può valer la pena di considerare che la misura in cui sei in grado di farlo dipende dal tuo proprio equilibrio. Prendere tempo per accordare il tuo strumento e ristabilire le tue energie non è quindi una scelta egoistica, è piuttosto una scelta intelligente.